4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Amici dei motori, buonasera, bentornati a una puntata davvero speciale di 4 ruote dintorni che vi fa compagnia ogni sabato dalle 21 fino alle 21.45. Qui con Roberto Rasia, Radio 24, gli amici di 4 ruote per parlare esclusivamente di motori. Puntata ricca e speciale, dicevo, partiamo dalla spedizione Oltre, di cui già abbiamo parlato tanto. Il gruppo Sole 24 Ore appoggia questa spedizione particolare mediaticamente e attraverso i mezzi dell'Iveco, sono due daily 4x4 e 4 massif, c'è una spedizione impegnata a raggiungere il passaggio a nord-est, a nord dell'Europa e insomma di tutto l'Eurasia, un viaggio davvero particolarissimo. Fra poco ci colleghiamo con il capo spedizione. Poi una prova di un'auto, la Boxster nuova è stata presentata giovedì e ieri fra Palermo e Mazara del Vallo siamo tornati ieri sera in aereo, oggi abbiamo montato la puntata e siamo pronti a farvi ascoltare i commenti di Porsche Italia, di 4 ruote e i nostri. Chiuderemo con l'analista del Sole 24 Ore Paolo Malagodi e il direttore di 4 ruote sul mercato dell'auto. Però partiamo subito da Oltre. Vi dicevo, è già partita la spedizione a dicembre con questi 6 mezzi che porteranno per la prima volta una serie di uomini, un team di uomini appositamente trovati in giro per il mondo, è un vero e proprio equipaggio, si può chiamare così, al mitico passaggio a nord-est. Dopo oltre 10.000 chilometri da Oslo c'è il passaggio a nord-est, che è quel punto, per intenderci, in cui si può osservare all'orizzonte sia la Russia che gli Stati Uniti. L'equipaggio sarà il primo a raggiungere in auto, su gomma, l'estremo più remoto dell'Eurasia. Potete immaginare in questa stagione meno 20, meno 30, meno 40 gradi quali possano essere i problemi tecnici. Allora chiediamo subito a Gianni Maccagni come sta andando. Intanto, caro Gianni, bentornato, buonasera. È un piacere di sentirti. Vuoi darci un aggiornamento attuale? È esatto dire che siete a Sivtikar, la capitale della Repubblica dei Komi? Puoi anche dire dov'è, perché sinceramente non lo sappiamo. Allora, siamo leggermente a sud rispetto alla nostra rotta tracciata inizialmente per raggiungere Welen. Siamo in pratica a sud, direttamente sud di Narian Mar, per intenderci, appena prima degli Urali e all'altezza di Salekar, però prima degli Urali, quindi in una zona di foreste, una città la cui attività prevalente è quella della lavorazione del legno. Quanti chilometri avete percorso finora, Gianni? Finora abbiamo percorso 9.600 chilometri circa. Per darti un'idea, noi abbiamo dato i chiodi sulle nostre coperture ad Oslo, 30 chilometri dopo abbiamo cominciato a trovare ghiaccio e non l'abbiamo più mollato. Beh, immagino faccia anche freddino, anche se le temperature si sono alzate ultimamente. Questo che cosa ha comportato in termini non tanto di paesaggio, ti chiedo, quanto soprattutto di strade e viabilità? Così ci descrivi anche com'è la situazione per chi si reca in quei posti in maniera insolita su gomma come voi. Ahi noi, è vero quello che dici, la temperatura si è drasticamente innalzata 4-5 giorni fa e questo ha cominciato a crearci dei serissimi problemi proprio a Mesen, dove noi dovevamo attraversare un'area paludosa e di fiumi. Lì ci siamo trovati con la prima grande, enorme difficoltà, delle paludi assolutamente non ghiacciate, e questo ha reso praticamente impossibile proseguire in quell'area. Abbiamo dovuto puntare a sud, puntando a sud abbiamo trovato tantissima neve, abbiamo percorso 690 chilometri di winter road con la neve dai 25 ai 45 centimetri di neve fresca l'altro ieri sera per percorrere 16 chilometri abbiamo impiegato 6 ore perché era una zona paludosa dove si sprofondava anche un metro in acqua e fango. Pensate, addirittura questi sono i tempi quasi rallentati dovuti proprio alla difficoltà del territorio. Tra l'altro, se non sbaglio, avete avuto modo di essere anche utili a qualcuno che si era perso, vero? Sì, proprio in quell'area delle paludi che ti dicevo, un'area di paludi e di carceri oltretutto, a pochi chilometri da un carcere, un grosso camion era da 3 giorni impantanato, gli abbiamo dato assistenza concedendo mettendo a disposizione i nostri alimenti, qualche pacchetto di sigarette, perché nel nostro gruppo una persona sola c'è che fuma, ma c'è, e poi l'abbiamo tirato fuori. In pratica siamo riusciti a tirar fuori questo mezzo, ed era ovviamente molto molto soddisfatto, anche se poi non ha potuto proseguire perché c'erano dei danni anche alla meccanica. Però se non altro è stato tirato fuori, e sappiamo che il giorno dopo sarebbero arrivati e che chiaramente avranno avuto molto meno problemi. A proposito di danni, Gianni, quando siamo andati a visitare lo stabilimento Iveco, riportandone poi le voci dei responsabili che hanno allestito questi sei mezzi, con un certo imbarazzo ma simpatico hanno detto che loro sono pronti a tutto, nel senso che questi mezzi devono affrontare anche un po' di mistero, perché affrontano un ambiente e delle strade che fino ad oggi nessuno aveva, per così tanti giorni, per così tanti chilometri, affrontato. Che danni avete subito finora? Che imprevisti, se ci sono stati? Allora, per il momento, per Giorgio e Riccardo, un po' di delusione, perché di danni e di problemi, per fortuna nostra, non ci sono stati. Non abbiamo avuto alcun tipo di inconveniente, per intenderci non abbiamo ancora usato nemmeno coperture di teli a protezione dell'anteriore del mezzo. Abbiamo, soltanto per scaramanzia o comunque per tranquillità, a Kirkenes con meno 32 tenuto acceso un solo motore per verificare appunto se ci fossero stati dei problemi con l'accensione degli altri. In realtà gli altri 5 mezzi, l'avviamento immediato al primo colpo, come quando si accende una vettura in garage. È incredibile, però questo sta succedendo, per nostra fortuna, ma non penso sia solo fortuna, per un'ottima preparazione di questi mezzi da parte di Iveco. Beh, meglio così, Gianni, non diciamolo troppo forte. Che cosa vi aspetta adesso? Quanti chilometri e che temperature? Avete sentito le previsioni? Allora, le temperature, per nostra fortuna, stanno tendendo al freddo. Le previsioni danno un forte calo previsionale nell'area in cui ci stiamo dirigendo. Noi dovremo passare gli Urali e abbiamo previsioni di temperature che arrivano a meno 36, meno 37. Questo è quello che ci aspettiamo e che sinceramente speriamo. Ma prima di arrivare là, purtroppo abbiamo ancora questi piccoli tratti con dei meno 9, meno 10, che è veramente caldo per quanto ci riguarda. Senti, un'ultima cosa, il controllo serraggi è qualcosa che di solito si fa ogni 20-30 mila chilometri durante il tagliando, nel vostro caso invece deve essere molto più frequente. Ti chiedo ogni quanto e a che cosa serve? Allora, noi proprio in questo momento tutti i mezzi sono in un'officina Iveco per questo tipo di intervento, tutti i controlli di serraggi, perché quando ti parlavo prima delle medie, ti posso confermare che fino da quando siamo in territorio russo la media totale, complessiva della nostra percorrenza è di 27 km orari, ci sono degli ondulè molto molto pronunciati, anche nelle winter road non battute, e questo porta delle vibrazioni esagerate a tutta la struttura. I serraggi li abbiamo appena terminati, è la seconda volta che vengono effettuati, e prevediamo di farli ancora tra circa 3.000-3.500 chilometri. Gianni, voi affrontate condizioni che noi automobilisti solitamente neanche immaginiamo. Riesce a dare dei consigli a chi in questo caso, magari andando in montagna a sciare, si trova di fronte al ghiaccio e al neve? Noi spesso parliamo nella nostra trasmissione di consigli di guida sul ghiaccio e sulla neve. Tu hai qualche malizia acquisita in queste settimane? Allora, noi abbiamo come aspetto ancora peggiore delle guide di ghiaccio e neve tradizionali, abbiamo dei carrelli con noi che rappresentano veramente una difficoltà ulteriore nella guida in questo ambiente con questi fondi. Questi carrelli comportano una difficoltà ulteriore nella guida. I consigli che possiamo dare nella guida in ghiaccio e neve sono quelli della massima delicatezza nell'utilizzo di sterzo, accelerazione e frenate, chiaramente, utilizzo il più possibile del freno motore, ma anche lì senza esagerare, e massima attenzione ai cumuli di neve fresca che ci sono ai bordi, perché questi trascinano immediatamente il mezzo all'esterno, e quindi occorre prestare sempre la massima attenzione a questi cumuli. Ma indiscutibilmente il consiglio principe da dare è quello della velocità estremamente controllata e limitata. Molto bene, grazie davvero a Gianni Maccagni. La spedizione Oltre vi aspetta su radio24.it. Grazie Gianni e a prestissimo. Grazie a te Roberto, arrivederci e risentirci a presto. Grazie Gianni Maccagni, vice capo spedizione di Oltre. In questi giorni in realtà il capo spedizione, perché sta arrivando il responsabile impegnato in Europa per impegni di comunicazione, anch'essi decisamente importanti per far conoscere i risultati e lo spiegamento di forze di questa spedizione Oltre. Trovate tutto su radio24.it naturalmente. Ruote e dintorni. Allora, ve l'avevo anticipato in apertura, adesso giunge la prova della nuova Boxster. Una prova importante perché in un momento importante del mercato Porsche sforna novità. L'ha fatto con la Cayenne, che sta arrivando diesel, l'ha fatto con la Cayman qualche mese fa, adesso arriva la nuova Boxster che tanto successo ha avuto negli anni precedenti, da quando nel 96 è stata presentata la prima generazione. Questa è la terza generazione, siamo andati da Palermo a Mazara del Vallo attraverso delle stradine meravigliose siciliane, purtroppo un po' battute dalla pioggia, però ci hanno lo stesso concesso la possibilità di tastare, di toccare da vicino un'auto per tanti chilometri, e sapete che provare un'auto per tanti chilometri è sempre il modo migliore per conoscerla. Prima di sentire la nostra scheda abbiamo la possibilità di chiedere a Mauro Gentile, responsabile della comunicazione degli uffici stampa di Porsche Italia, di che tipo di auto stiamo parlando, la nuova Porsche Boxster e la Boxster S. Vera Porsche, perché definisco la Porsche Boxster come la vera Porsche? Perché incarna quelle caratteristiche tipiche che desiderava il professor Porsche quando pensò di costruire l'auto che non c'era. È un concetto che mi è caro, un concetto che più volte ho espresso anche nel corso del raccontare e dello spiegare perché Porsche ha alla base questa idea di costruire l'auto che non c'era. Il principio di Porsche fu l'8 giugno del 48, più di 60 anni fa, ormai siamo al 61esimo anno, e fu con la numero 1, una vettura Roadster, due posti, motore posteriore centrale. Ecco che la Boxster ora, a distanza di 61 anni, reincarna nuovamente in questa sua nuova interpretazione dal punto di vista stilistico, dal punto di vista tecnologico, reincarna ancora quell'origine, la numero 1, la prima Porsche. Andiamo sul tecnico. Mauro, ti chiedo di spiegare le caratteristiche principali delle due versioni con un po' di differenza. Intanto un aumento di cubatura per la versione che era 2.7 come cilindrata ed è cresciuta. La cubatura è cresciuta da 2.7 a 2.9, poi abbiamo l'altra motorizzazione con 3.004. Per quanto riguarda i cavalli, una poca iniezione di potenza, ma importante, ma quello che sostanzialmente vorrei richiamare come attenzione è la modifica proprio del gruppo propulsore, cioè il motore è cambiato radicalmente con l'introduzione dell'iniezione diretta e soprattutto con un cambio manuale per quanto riguarda la versione base a 6 marce innovativo, e ancora più innovativo l'introduzione del cambio a doppia frizione. Questo dal punto di vista tecnologico è la grande differenza. È stata poi chiaramente rivista in tutto l'insieme dell'automobile dal punto di vista tecnologico, compresa anche l'impianto sterzante, l'impianto frenante, è stato rivisto anche il meccanismo dell'apertura e chiusura della capote, con l'utilizzo della capote ancora intera per dare che cosa? Leggerezza alla macchina, e quindi caratterizzarne ancora una volta per una vettura destinata al tempo libero invece l'aspetto sportivo. La vettura sportiva deve pesare assolutamente di meno. Mauro, chiudiamo con il prezzo, almeno per il nostro paese, lo commentiamo cercando di capire quali sono le scelte che hanno spinto in un momento di mercato per tutti così difficile Porsche ad adottare questo listino. Ma le scelte del listino non sono scelte specifiche, il prezzo è calcolato esattamente, intanto il prezzo è uguale in tutta Europa e cambia solo l'imposizione fiscale e le specifiche esigenze del paese. È un listino che è leggermente modificato rispetto alla versione precedente, ma andiamo a 58.000 euro per quanto riguarda la versione Boxster S come prezzo di ingresso nel mercato. Grazie a Mauro Gentile, allora ascoltiamo le caratteristiche principali di questa nuova Porsche Boxster S da questa scheda. Non è casuale la scelta del territorio siciliano per presentare la nuova generazione delle Porsche Boxster. Proprio fra le curve e i saliscendi di questa meravigliosa terra, infatti, nel 1956 Umberto Maglioli portò alla vittoria assoluta la Porsche 550 Spyder nella prestigiosissima Targa Florio, una delle gare più ambite di sempre. Porsche ha venduto ben 165.000 esemplari della Boxster prima generazione, presentata nel 1996, e circa 100.000 della seconda, presentata nel 2004, un indiscusso successo. Eppure la ricerca non si arresta e dal team di progettazione tedesco nasce la nuova Boxster, completamente rinnovata nei contenuti e leggermente rivista nelle linee, in pieno stile Porsche. La nuova Boxster cresce di cubatura da 2.7 a 2.9 ed eroga 255 cavalli, mentre la versione S, grazie al suo 3,4 litri e all'iniezione diretta, raggiunge la potenza di 310 cavalli. Sono stati ridotti i consumi in media dell'11% e parte del merito è dovuto all'adozione del PDK, il velocissimo cambio a 7 marce con doppia frizione. Ecco alcune caratteristiche della nuova Porsche Boxster S. Motore, 6 cilindri Boxster da 3.400 cm3. Potenza, 310 cavalli a 6.400 giri. Cambio, manuale a 6 marce o PDK a 7 marce con doppia frizione. Velocità massima, 274 km/h con cambio manuale. Segni particolari, differenziale autobloccante all'asse posteriore. Consumi 9,2 litri ogni 100 km. Prezzo si parte da 57.000 euro, IVA inclusa. C'era la possibilità anche di intervistare alcuni dei responsabili del progetto Boxster, sono tedeschi ovviamente, l'abbiamo fatto grazie anche alla traduzione simultanea di una traduttrice in loco. Mitja Borkert è il nome del responsabile del design di questa Boxster e abbiamo parlato a lungo con lui di linee, di bellezza, di trend del mercato dell'auto per coloro che le disegnano. Allora gli abbiamo chiesto, forse la domanda che tutti si chiedono in questi ultimi mesi, ma è meglio il tetto rigido per le cabrio moderne, una tendenza che il mercato sembra sposare, oppure la vecchia e buona tela per le roadster come questa è sempre come la panna sul cioccolato, come direbbe qualcheduno, anche in termini di bellezza, la bellezza vera della linea, anche se soggettiva per ognuno, però la bellezza per un designer particolarmente importante, dovendo andare a sfamare le bocche di tanti appassionati. Allora sentiamo Mitja Borkert che cosa ne dice. Ich als Designer und wir bei Porsche come designer, come noi della Porsche, siamo convinti che per la generazione delle cabriolet noi continueremo a realizzare il tetto in tessuto, perché questo aiuta anche le proporzioni delle nostre auto, perché abbiamo una linea, una delle proporzioni di base della vettura che si possono mantenere o possono funzionare soltanto insieme alla capote in tela. Pensate agli svantaggi che avremmo con un tetto rigido, il volume, l'ingombro che si creerebbe ulteriormente sopra questo un motore centrale, soprattutto nel momento in cui si dovesse aprire il tetto. Questo è già un motivo per cui assolutamente bisogna mantenere il tetto in tela. Il secondo aspetto è una questione di filosofia. Un roadster, dal nostro punto di vista, è sempre perfetta quando ha un tetto in tela. E il terzo motivo è che è una questione anche di prestazioni, di performance, che migliora, perché così riusciamo a tenere in un punto molto basso il centro di gravità. Recentemente è stata presentata, l'avrà vista sicuramente, la nuova BMW Z4, un modello che si ricorda quando è stato presentato, ha fatto parlare di scandalo in quanto a linee. Chris Bangle, il capo designer di BMW, accettò quasi un'auto con quelle squadrature molto nette. La nuova Z4 invece è decisamente meno squadrata, ritorna una certa rotondità. Le faccio un altro esempio, la Boxster, per esempio la Mazda MX-5, sono molto rotonde. Lei crede che il trend del design del futuro nel mondo dell'auto sia nella direzione della rotondità oppure nella direzione di un ritorno alla squadratura? In die Richtung rund geht oder eher wieder auf das Eckige zurückkommt. Abbiamo molto rispetto per il lavoro dei designer che lavorano per gli altri costruttori. Noi della Porsche abbiamo un modo molto particolare, abbiamo un DNA specifico a Porsche Design che noi manteniamo sempre per le nostre vetture. È un design che voi siate a Los Angeles o a Roma, se vedete appunto una Porsche nel mezzo del traffico a distanza di 300-400 metri, si può dire chiaramente questa è una Porsche. E questo valore di riconoscere con facilità, di identificare con facilità la nostra vettura, verrà sempre mantenuto. Grazie anche a Mitja Borchert, il responsabile del design di Boxster. E adesso sentiamo il commento di Andrea Sansovini, il collega di Quattro Ruote, che era presente e ha guidato l'auto. Beh, la Boxster è una macchina sportiva, una vera Porsche, ed è soprattutto divertente da guidare. È migliorata, si tratta di tanti piccoli miglioramenti rispetto alla prima versione di Boxster, e quindi non solo di potenza e di cilindrata. Un po' come abbiamo visto di recente sulla nuova Porsche Cayman, anche sulla Boxster appunto ritroviamo soprattutto un grandissimo piacere di guida. Possiamo dire che questa è la Cayman declinata, per chi vuole conservare il concetto di roadster e quindi di poter abbassare la capote, la vecchia storica capote di tela, tra l'altro. Non a caso infatti è tela e non rigido, una scelta invece verso cui stanno andando molte case automobilistiche. Parliamo proprio di quello, del vero piacere di guida. Ovviamente è bassa, larga, pesa il meno possibile, ha grande trazione e propulsione, l'iniezione di diretta scatena tutti quei cavalli già in seconda, in terza, in quarta marcia, sempre nei limiti che il codice della strada prevede, ma in pista è lì che l'anima della Boxster, cresciuta rispetto alle precedenti versioni, si scatena fino in fondo. Fammi capire la tua impressione su questa doppia frizione, una frizione che rende il cambio velocissimo, l'ho trovato veramente molto efficace. Sì, questa è la caratteristica principale della nuova Boxster. Finalmente adotta il cambio PDK, che sta per Porsche doppia frizione, Doppelkupplung, inaugurato sulla Carrera e poi visto anche sulla Cayman. In pratica si ha un cambio robotizzato a sette marce che funziona come un vero cambio automatico, quindi non c'è il pedale della frizione, c'è una leva del cambio che serve solo per passare da drive a parking e neutral e poi la possibilità di mettere manualmente in modo sequenziale le marce, anche con i tasti al volante. In realtà si scopre subito che è tale la rapidità dei cambi anche in modalità automatica e il piacere di guida rimane così intatto che è davvero piacevole da guidare in questo modo, in modo automatico. Quello che stupisce di questo tipo di cambio sono proprio gli innesti precisi, velocissimi, davvero in grado di scegliere e mettere la marcia giusta con una rapidità incredibile. Facciamo anche una critica, perché i nei bisogna sempre trovarli, insomma, in ogni modello, per far sì che poi i futuri e i successivi siano migliori. I comandi al volante sono stati criticati da alcuni colleghi, accettati da altri. Tu come l'hai trovati? Beh, anche noi su Quattro Ruote abbiamo avuto un po' da ridire su questi tasti che si trovano ai due lati delle razze del volante, sulla parte superiore. Sono forse un po' poco intuitivi, perché in pratica bisogna spingere per salire di marcia e tirare verso di sé per scendere di rapporto, perché è un po' contro l'istinto e anche la tendenza del corpo di andare verso il volante quando si sta frenando bruscamente e di andare indietro quando si sta accelerando. Però tutto sommato è solo questione di abitudine. Dopo pochi chilometri e un po' di cambiate si impara ad apprezzare anche questo tipo di tasti. Quattro ruote e dintorni. Allora, ultima parte di Quattro Ruote e dintorni, ci fa compagnia, come vi avevo anticipato in apertura, il direttore di Quattro Ruote, Mauro Tedeschini. Allora, bentornato, buona serata, direttore. Grazie, buongiorno a voi. Senti, direttore, tre argomenti, iniziamo dal primo, uno alla volta, via veloci. Giovedì, due giorni fa, c'è stato un evento, un'iniziativa che ogni anno tiene compagnia, all'inizio anno, agli amici automobilisti, anche da lontano, ai vostri lettori, ai nostri ascoltatori. L'auto che preferisco, una serie di iniziative, puoi spiegarle magari a chi non ne avesse mai sentito parlare? Sì, tutti gli anni noi appunto teniamo questa manifestazione in cui premiamo le automobili che sono state più votate dai lettori, e quest'anno la più votata in assoluto è stata l'Alfa Romeo Mito. Poi lì organizziamo una discussione su quelli che sono un pochettino i temi più caldi del momento, e quest'anno il tema era abbastanza obbligato, il titolo della giornata era cambiare, ma come? Perché tutti dicono che questo mercato dell'auto deve cambiare, però non è facile trovare delle strade nuove che poi si rivelino anche redditizie, perché l'auto ha bisogno anche di incassare quattrini, in questo momento di grandi difficoltà. E quindi avevamo dei grossi personaggi, perché c'erano Chris Bengo, che è il chief designer della BMW, Kevin Roberts, che è il più grosso e più importante pubblicitario del mondo, c'era l'amministratore delegato della Ferrari, Felisa, e poi c'era il direttore delle strategie dell'ENI, il professor Maugeri, che è uno dei più grandi esperti di previsioni sul prezzo del petrolio a livello mondiale. Ovviamente il prezzo di benzina e gasolio interessa molto anche per gli sviluppi del mercato dell'auto. È parecchio, decisamente. È ovvio che non puoi riassumere tutto in poco, però c'è una pillola che ti è rimasta particolarmente impressa su questi consigli da dare al mercato dell'auto da parte degli esperti, oppure una linea di pensiero comune, o ognuno ha la sua? Sì, ma direi che la pillola è in una frase di Kevin Roberts, appunto, che tra l'altro è l'autore di libri molto famosi sui cosiddetti love marks, cioè i marchi che la gente non solo compra ma ama, e con cui c'è un rapporto molto più profondo che non il semplice acquisto. Gli love italiani, secondo lui, nell'auto sono la 500 e la Ferrari, tanto per dare un esempio. E Roberts dice: attenzione, molti dicono il mondo sta cambiando, non è vero, il mondo è già cambiato. Sì. E quindi bisogna agire da subito in una prospettiva completamente nuova, che per quello che riguarda il mondo dell'auto significa macchine molto più piccole, molto più ecologiche, e anche che costino molto meno ad acquistarle. Non a caso tutta l'industria dell'auto si sta riorganizzando su questa linea. Secondo argomento, direttore: ieri avete aperto i telefoni ai lettori. I vostri redattori erano seduti in ufficio davanti al computer, ma invece di scrivere gli articoli di Quattro Ruote, a questo giro hanno risposto alle domande dei lettori. Che cosa vi hanno chiesto? Ma ci hanno chiesto soprattutto di temi che riguardano la manutenzione dell'auto. In questo momento evidentemente non c'è una grande tendenza a comprare l'auto nuova, la tendenza invece è quella di cercare di far durare il più possibile l'auto che già si possiede. Sì. E quindi devo dire che i colleghi, che per noi si chiamano della tecnica e della qualità, cioè in pratica tutto quello che riguarda la manutenzione del prodotto, sono stati subissati di domande. Però devo dire che i telefoni hanno suonato in maniera veramente continua e incessante. Immagino. Abbiamo messo a dura prova le nostre segretarie, che veramente hanno fatto uno sforzo enorme, e dalle 10 alle 5 del pomeriggio noi abbiamo risposto tra telefonate e a un migliaio di persone. Tenete conto che è un numero enorme se considerate che per me è fondamentale la qualità della risposta, cioè molti quesiti richiedono un po' di tempo per essere così evasi in una maniera soddisfacente, e quindi è stato un modo per farci sentire ancora più vicini ai nostri lettori, ai navigatori del nostro sito, perché appunto tutti dicono essere più vicini ai propri clienti, ma come? Noi abbiamo cercato di farlo anche in questo modo. È chiaro, è molto chiaro. Bene, il terzo argomento lo sviluppiamo adesso fra pochi istanti con il professor Malagodi, ma ci dia la sua opinione veloce su quanto è successo in settimana. Insomma, tutti i dirigenti del settore automobilistico hanno incontrato il governo, incentivi sì, incentivi no, incentivi quanti. Lei, direttore, cosa ne dice? Ma io penso che ormai sia abbastanza scontato che gli incentivi ci saranno, perché tutti i governi si stanno muovendo in questa direzione, e non concederli significa che in pratica emarginare il mercato italiano dal resto dell'Europa. Quello di cui si parla adesso è di un incentivo abbastanza consistente, addirittura di 1.500 euro, che sarebbe ben superiore a quello scaduto il 31 dicembre dell'anno scorso. Ovviamente il tutto sarà legato al fatto che in cambio della macchina si demolisce e si acquista una macchina con delle emissioni molto contenute. Credo che sia una scelta obbligata, insomma, vedo che ci sono ancora discussioni, mal di pancia eccetera, ma non è in questo momento una scelta fatta per favorire chissà chi, è una scelta obbligata per una filiera che in Italia occupa veramente centinaia di migliaia di lavoratori e che rischia poi di in qualche modo condizionare tutto l'andamento dell'economia italiana nel corso del 2009, che già non si preannuncia. Certo, certo. Grazie davvero e buona serata al direttore di Quattro Ruote, Mauro Tedeschini. A presto. Grazie e buona serata a voi, arrivederci. Rimaniamo però su questi temi con l'analista del Sole 24 Ore, Paolo Malagodi. Professore, bentornato. Salve Roberto. Cosa ne dice? Ha sentito il parere di Tedeschini. Lei come commenta le novità automobilistiche importanti per un settore in grave crisi, come lei ci ha insegnato negli ultimi mesi, per quanto riguarda governo, Fiat e tutti i dirigenti del settore? Beh, il settore è tanto più in crisi quanto più si trascina l'incertezza su provvedimenti che sono stati definiti nella sostanza. Poi l'articolazione è un dettaglio, ma pensare che le Euro 0 e le Euro 1 abbiano dei robusti bonus ben superiori ai 700-800 euro è materia comune, così come ci sarà l'estensione con tutta probabilità degli incentivi sino all'Euro 2 del 99, mentre adesso ci fermavamo a tutto il 96, nel senso che era il 1 gennaio 97 il limite, e poi il tutto avrà una temporanea esenzione da 1, 2, 3 anni sul veicolo nuovo dalla tassa di possesso. In questa situazione cosa succede? Che nessuno fa immatricolare l'auto ed è tanto evidente il fatto che noi eravamo arrivati in avvio dell'ultima settimana a una proiezione di 170.000 consegne. Debole, se si vuole, sì, che questo avrebbe significato un calo del 32,4% sull'anno scorso, però da un certo momento in là, mercoledì 28, il ministro dice daremo sostegni al settore e poi abbiamo 10 giorni di tempo. A quel punto lì, io che ho già pagato la vettura dal concessionario che deve solo mandare la pratica in immatricolazione e mettere sulle targhe, dico ferma tutto, perché casomai venissero fuori dei soldi, io poi c'ho comunque un euro due, vediamo se me ne arrivano, vediamo se un euro zero tanto di più. Quindi questo ha bloccato il mercato. Sì, significa che il mercato va in proiezione a un valore che è anche difficile stabilire. Io ragiono di 158.000 unità, che significa una stima del 32% in meno. Se poi arrivassimo a 153.000 unità, arriveremo a un meno 35% in meno. Un dato del tutto anomalo su un mercato che era già debole. Davvero importanti queste cifre e cercheremo di capire meglio, direi, la settimana prossima insieme a lei, se vorrà farci compagnia ragionando sui numeri precisi, così sentiremo se ci sono ancora notizie più aggiornate per quanto riguarda anche gli aiuti dello Stato. Professor Malagodi, per ora grazie davvero per il suo intervento e a prestissimo. A presto, risentirci. Parliamo adesso anche di comportamenti alla guida. Sapete che cerchiamo sempre di guardare il nostro vicino al semaforo o in autostrada quando andiamo passeggeri di qualcheduno che guida per capire come si stiano evolvendo anche i comportamenti. Già l'anno scorso abbiamo detto che l'enorme successo dei navigatori satellitari più o meno validi non è riuscito a mettere in cantina però quell'affascinante, in fondo possiamo definirlo così, se siete d'accordo, comportamento di guardare la cartina, perdersi nelle stradine quando si ha tempo per farlo e non lavorando possibilmente, o consegnare la cartina al nostro vicino. Quindi le cartine sono necessarie, le cartine devono essere aggiornate. Abbiamo una notizia in questo senso, ma ne parliamo con Emilio De Leidi di Quattro Ruote. Caro Emilio, bentornato e buona serata. Eccomi qua Roberto, saluto a te e tutti gli ascoltatori. Dicevamo di questo comportamento, c'è in edicola a febbraio un allegato gratuito a Quattro Ruote che è l'Atlante delle strade aggiornate, quindi ne parliamo essendo gratuito insieme al giornale molto volentieri per dire che ci sono degli aggiornamenti importanti, addirittura una prova comparativa di mezzi diversi, vero? Sì, guarda, abbiamo voluto arricchire questo volume che appunto regaliamo con Quattro Ruote di febbraio, con la cartografia in scala 1-250.000 aggiornata, di una serie di test che ci derivano anche dalla curiosità del fatto che finalmente l'Italia si è affacciata al mondo dell'alta velocità ferroviaria, con grande ritardo rispetto ad altri paesi come per esempio la Francia, ma finalmente ci siamo arrivati. Ecco, abbiamo voluto provare a fare delle simulazioni di tempi e di costi sui percorsi classici, per esempio la Milano Roma, per vedere oggi a che punto è la convenienza di prendere l'aereo piuttosto che il treno, piuttosto che usare la tradizionale automobile. Sì, perché essendosi ridotto di molto il tempo di percorrenza in treno, sicuramente qualcuno dice, dovendo andare anche recarsi apposta in un aeroporto, può convenire il treno. In macchina? Ma guarda, abbiamo simulato un percorso Piazza Castello-Piazza Venezia, no? Cioè due punti, sì, centrali delle varie città con tutti i vari mezzi, vedendo che per esempio, ecco sì, l'Eurostar Fast richiede 3 ore e 30 minuti di percorso, però diventano 4 ore e 30 con tutti i mezzi pubblici eccetera, e costa, tenendo conto anche del biglietto del treno metropolitana, intorno ai 67-68 euro. Sì. L'automobile costa ovviamente di meno, un'auto diesel media, medio superiore, più il pedaggio autostradale può costare intorno ai 40-45 euro. L'aereo dipende ovviamente, se si prende una low cost da Malpensa costa molto di meno, costa te la puoi cavare con un 43 euro, se si prende un volo di linea dall'Inat, una Alitalia o Air One, ormai la stessa cosa, si può arrivare a spendere anche 350 euro. Questo cosa vuol dire? Naturalmente poi il fattore tempo è interessante, perché con l'aereo si può impiegare circa 3 ore e mezza, però se parti da Malpensa diventano più di 4 ore, con l'automobile diciamo che le 6 ore classiche, compreso una sosta per per un chiamiamolo pit stop di vario genere, quindi andare in bagno, per esempio fare il gasolio eccetera eccetera, richiede circa 6 ore con l'ingresso in città. Allora, naturalmente dipende poi dalle esigenze, però è chiaro che il treno finalmente è diventato estremamente competitivo, mentre i costi dell'automobile, se ripartite su più passeggeri, finiscono a essere ancora più interessanti, perché se i 75 euro diciamo di un viaggio in auto vengono sostenuti da una sola persona, è un discorso, ma se invece vengono ripartiti già in due o addirittura in tre, in quattro persone, effettivamente il costo diventa più interessante. Soprattutto se si è appunto in due oppure in tre. Emilio, che cos'altro c'è di utile nella cartina allegata a quattro ruote? Beh, diciamo ci sono i soliti contenuti redazionali di quattro ruote, quindi per esempio la mappa aggiornata di tutti i sistemi tutor in funzione sulla nostra rete autostradale, che continua a essere sviluppato questo sistema, quindi ci sono sempre più tratti dove la velocità media dei veicoli viene monitorata e sanzionata quando è superiore ai limiti previsti dal codice della strada. Ci sono tutti i numeri di telefono utili per chi viaggia, quindi naturalmente anche i numeri delle società autostradali, i numeri e i siti per avere informazioni aggiornate sul traffico, e soprattutto la novità è anche il formato di questo atlante, che è stato studiato, è per darvi un'idea, mezza pagina di quattro ruote, no? Quindi molto più piccolo del solito, perché in questo modo ci può stare nei cassetti portagetti delle automobili, quindi questo tipo, ecco, ci sono stati addirittura dei piccoli libri, dei trattati di sociologia che dicono perché gli uomini, le donne chiedono la strada e gli uomini guardano le cartine, no? Forse è presente che ci sono dei libri di questo genere un po' sullo scherzoso, ma effettivamente la passione, il fatto della cartografia tradizionale non ha del tutto soppiantato i navigatori satellitari, e effettivamente una buona cartografia aggiornata ha tuttora una sua validità. È chiaro, è chiaro. Molto bene, grazie davvero Emilio De Leidi per questo intervento, a prestissimo e buona serata. Grazie soprattutto a te Roberto e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Con la voce di Emilio termina anche la nostra trasmissione, che troverete puntuale sabato prossimo, ricordatevelo, dalle 21 fino alle 21.45 parleremo interamente, esclusivamente di motori. Questo è il DNA di Quattro Ruote Dintorni. Grazie a Peter Bescapè in regia, Roberto Rasia vi ha parlato, vi ricorda radio24.it per riascoltare tutte le voci finora sentite, e poi il nostro indirizzo email 4ruote@radio24.it. Grazie e alla prossima settimana.